Io ho paura, Duccio. Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi. Cioè? Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada. Tu non lo leggi? Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto. Manca il Corriere dello Sport, posso leggere? Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio. The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone. But the melody lingers on. Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. Buonasera e bentornate e bentornati a Tabula Rasa. Oggi è giovedì 27 aprile e oggi noi dedicheremo una puntata speciale a una delle giornate più importanti dell'anno, il 25 aprile, l'anniversario della liberazione italiana dal nazifascismo. Lo facciamo oggi, lo facciamo giovedì 27 aprile, non perché non ci interessi quella data e quindi non ci interessava parlarne prima, ma proprio perché per noi la resistenza è tutti i giorni. Qui a Tabula Rasa si celebra la fine del nazifascismo e dell'occupazione nazista tutti i giorni, si rompe con il fascismo tutti i giorni e lo si fa attraverso i libri e attraverso le parole di altre e altri e attraverso tutti i linguaggi che la letteratura mette a disposizione per parlare di resistenza. Il primo linguaggio, per esempio, è un graphic novel. Noi inizieremo questa puntata con La Rosa Armata, un graphic novel di Costanza Durante, Elisa Menini, Alessio Ravazzani, edito da Minimum Fax, ed è appunto la storia di due amiche, Rosa e Gisella, nelle langhe del 1944, quando entreranno in contatto con una brigata partigiana tutta composta da donne. Proseguiremo con un diario di Joyce Lussu, l'uomo che voleva nascere donna, diario femminista a proposito della guerra, e con un ritratto di Joyce Lussu da parte di Paola Soriga, una scrittrice, autrice, che ha dedicato anche parte della sua produzione narrativa al racconto della resistenza, con un libro per Einaudi, Dove finisce Roma, e un libro, La guerra di Martina, per La Terza, che è, diciamo, dedicato al racconto della resistenza per i più giovani, per i bambini e per le bambine. Completeremo questa puntata con una biografia storica, un misto fra una biografia e un saggio storico, qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri per Pendragon, scritta da Alfredo Mignini ed Enrico Pontieri, che sono degli storici di formazione che raccontano la complessa vicenda biografica di Otello Palmieri, una vita appunto fuori dal comune, quando quest'uomo nell'estate del 44 da un piccolo borgo fuori Bologna imbraccia il fucile e dopo un rastrellamento e diventa partigiano. Questi sono i tre libri che vi presenteremo stasera e buon ascolto. Where's the money? Armed robbery, resisting arrest, assault on a police officer. Prior conviction and sentence, sir. I hereby remand you. Parliamo con Costanza Durante. Ciao Costanza, ciao. Benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Mi sentite bene? Perfettamente. Perfetto. Sei perfetta. Parliamo con Costanza di questo fumetto che si chiama La Rosa Armata, che Costanza ha scritto e che invece ha disegnato Elisa Menini. Questo è il primo fumetto di Minimum Fax, il primo fumetto pubblicato da Minimum Fax di questa collana cosmica, perché in realtà Minimum Fax pubblicò già un paio di fumetti in passato. E se non sbaglio, uno su Zelda Fitzgerald e un altro su Federico Aldrovandi, se non sbaglio, fatto da Spataro. Ma per la collana cosmica questo è proprio il primo fumetto, e, uscito però praticamente in contemporanea con quello di Tommy Parrish, di cui parlava Simone Zo pochi minuti fa, e, consigliandolo al nostro pubblico. Quindi insomma due uscite incredibili a bomba, proprio per partire con questa collana. E La Rosa Armata parla di resistenza. Parla della resistenza al femminile attuata dalle donne durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia. Nello specifico la storia si svolge nel 44 e la protagonista appunto è una ragazza di campagna che si chiama Rosa. E sono tante le testimonianze, diciamo, scritte, quindi non graphic novel, non fumetto, di donne che hanno combattuto la resistenza, per la resistenza. E, ad esempio, la mia preferita è Con cuore di donna di Carla Capponi, ma ce ne sono moltissime. Ci sono anche delle storie romanzate, come ad esempio L'Agnese va a morire. E, quindi ecco, io la prima domanda che ti farei, Costanza, è intanto come nasce questo fumetto, cioè come è nata l'idea, se è nata da te, se è stata una commissione, e però cosa ci hai messo di tuo, da cosa ti sei fatta ispirare per la scrittura di questa sceneggiatura? Allora, l'idea in realtà è nata dalla casa editrice, in particolare dalla editor che si occupa della collana cosmica, Carlotta Colarieti, che mi ha contattato con diciamo già l'idea piuttosto chiara, perché voleva appunto fare una storia sulla resistenza al femminile che fosse però quanto più libera possibile, nel senso che lei ci ha tenuto a darmi un tema senza mettere poi paletti, perché poi tutto ciò che riguardava il soggetto e la storia è stato mi ha lasciato completamente libera. E mi fa piacere che tu abbia citato esattamente i due libri che sono stati i primi che ho letto per questa ricerca, soprattutto L'Agnese va a morire, che è sicuramente il romanzo al quale mi sono ispirata di più per raccontare la storia di Rosa, anche se si svolge in un'altra regione italiana, e la protagonista dell'Agnese va a morire è una donna adulta, mentre invece Rosa è una ragazzina nel momento in cui inizia la nostra storia. Quindi quello che ho messo di mio, in realtà, diciamo, sulla storia è quasi tutto, perché appunto non mi sono state date delle restrizioni di alcun tipo. Mi piaceva l'idea di raccontare una ragazza molto giovane, perché era il personaggio più innocente in qualche modo e non ancora toccato da alcuna ideologia, perché la protagonista, quando inizia la sua avventura, non è una partigiana, non ha un'idea ben chiara di quello che sta succedendo, e quindi è come se vedesse con occhi vergini l'orrore che si sta scatenando intorno a lei. Per cui mi piaceva avere un ingresso nella storia dirompente, come quello che può essere come lo sguardo di una ragazza di 16 anni che si ritrova improvvisamente a abbracciare un fucile. Ricordiamo, tu sei sceneggiatrice per la TV, se non sbaglio. Sì. Quindi sì. Questo per te è il primo fumetto con cui ti cimenti. Mi chiedevo, insomma, perché il fumetto l'ha illustrato Elisa Menini, che è stata anche lei ospite di Tabula Rasa, e per abbiamo parlato con lei di un fumetto che aveva fatto per Oblomov, Nippon, sì. Folklore, che, ma poi ce ne sono stati altri due sempre su questa onda, che sono fumetti che raccontano il folklore giapponese, che lei disegna in questo stile caratteristico giapponese alla Hokusai, per capirci, non proprio non uno stile manga, ma uno stile antico giapponese. E quindi non so perché mi aspettavo una cosa di quel tipo da lei, invece ho aperto questo volume che ho incontrato una nuova Elisa Menini, molto, molto espressionista e totalmente diversa da quello che abbiamo visto finora. E, mi ha incuriosito sapere, insomma, come avete collaborato, qual è stato l'iter di collaborazione, se vi siete trovate bene, se credi, insomma, che siete riuscite a dare tutto quello che potevate in questa collaborazione. Beh, è una collaborazione della quale non posso che parlare benissimo, perché è stato semplicissimo lavorare insieme, ci siamo capite subito, è stato veramente un lavoro immediato. Lei si è messa, cioè so insomma poi da quello che mi ha raccontato lei, che si è messa molto poi alla prova per fare una roba che era molto diversa, come dicevi tu, dai lavori precedenti, perché appunto aveva proprio anche l'intenzione di cambiare un po' il tratto per entrare in questa storia, anche se secondo me è un valore aggiunto. A me piace da morire il tratto di Elisa, e credo che comunque quegli echi da Giappone tradizionale si sentano anche in questo, anche in questa graphic novel, e aggiungano personalità alla storia. È vero anche che però è molto, è un tratto più espressionista anche nella sua semplicità. Io poi diciamo non utilizzerò la terminologia da giusta perché non sono un'esperta, però posso dire, per quanto riguarda la collaborazione, quello che io insomma, quella che è la mia esperienza, che ogni volta che le mandavo i pezzi della sceneggiatura da illustrare, quello che poi mi veniva restituito era esattamente quello che avevo immaginato. È stata una cosa, devo dire, inaspettata, non mi era mai capitato, quindi è stato molto bello, molto bello. Poi appunto è stata la mia prima esperienza col fumetto, non poteva andare meglio, perché non c'è stato mai bisogno di aggiustare il tiro se non per delle piccolezze, e perché appunto vedere poi sulla carta una cosa che avevo immaginato e poi scritto, però rappresentata in quella, in maniera così precisa, è stato anche molto emozionante. Ma infatti allora, io, perché c'è scritto sulla copertina che siete in due, che avete fatto questo fumetto, però ad uno sguardo meno attento della copertina si potrebbe credere tranquillamente, insomma, che sia fatto da un'unica persona, per come appunto è molto fluido il tutto. Il titolo del volume è La Rosa Armata, e Rosa infatti a un certo punto si deve armare, cioè imbraccia un fucile perché scoppia la guerra e perché si deve difendere. C'è un libro molto interessante che ha pubblicato Malamente Edizioni di Joyce Lussu, che parla proprio di come le donne si sono dovute armare durante la resistenza, ma di come gli uomini, seppur partigiani, non vedevano di buon occhio questo armarsi delle donne, che va bene, potevano fare la staffetta, ma non dovevano avere comunque un'arma con loro. E questa cosa nel fumetto mi piace, perché loro, queste donne, si ribellano, no, a questa visione comunque maschile, che la donna comunque debba essere relegata a fare determinate cose piuttosto che altre. Mi è piaciuto come avete calcato, insomma, la mano su questo tema. Sembra che anche a voi interessi molto. Sì, anche se in realtà noi ci volevamo concentrare poi più che altro sulla sorellanza e sulla lotta armata, non tanto in relazione a quella degli uomini, ma come una cosa un po' a sé stante, per cui ci sono ovviamente dei rimandi a questa cosa, però in realtà la cosa che mi aveva più colpito, leggendo anche delle testimonianze, non era tanto la questione interna alla resistenza, quanto il fatto che partire, armarsi, combattere per molte donne partigiane fosse stata, ovviamente nei limiti di combattere una guerra, che di sicuro non è un'esperienza piacevole né augurabile a nessuno, però era stato in qualche modo un momento di grande emancipazione, perché le portava a fare qualcosa di completamente diverso da quello per cui sembravano essere destinate. Per cui molte di loro partivano proprio alla quasi alla ricerca di una propria identità, quasi per scappare a fratelli, padri, mariti ingombranti, e trovando poi una loro dimensione individuale nella lotta armata. Per cui in realtà questo è stato sicuramente l'aspetto più interessante per me, anche per capire come pensavano le donne partigiane, perché poi quando devi far parlare i personaggi è fondamentale che ci sia un fondo di verità, per evitare che i dialoghi risultino posticci, e questa cosa mi era sembrata interessantissima, per capire proprio la psicologia e cosa le portava a combattere. Oltre alla necessità, c'era anche forse una spinta più intima, più sì, diciamo una fuga dalla routine quotidiana di figli, di essere figli e mogli, madri, sì, alla quale erano destinate. In qualche modo sì, infatti quella di Rosa è un po' anche una storia di formazione, motivo per il quale poi ho scelto di raccontare la storia di una ragazza adolescente, perché è il momento in cui della vita in cui si decide chi diventare, e mi sembrava tematico poi all'interno di questo racconto, di questo viaggio. Che poi la sorellanza è sia con la sua amica vicina di casa, sì, che è incinta e che quindi è un po' più fragile, che va, insomma, va aiutata, sia con questa brigata delle streghe che, alla quale loro si uniscono, e dove effettivamente è lì che arriva, no, il, come dire, il, la consapevolezza di poter fare alcune cose, seppur essendo, pur se, essendo donne, si possono comunque fare alcune cose. E ti dirò di più, io ho notato che le figure degli uomini in questo fumetto non, è, non sono proprio magnifiche, e questa cosa mi, diciamo, in qualche modo mi è piaciuta, non perché penso che tutti gli uomini siano da, insomma, da denigrare, ma perché secondo me non si parla molto di del contributo delle donne, che è stato sempre sottovalutato nella resistenza, ecco. Quindi ho apprezzato anche questa cosa qui, anche il fratello della protagonista, che comunque è un partigiano, non ne esce fuori benissimo, cosa che invece fa la protagonista, perché le fai pronunciare una frase molto bella, che è: sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma non vorrei un'altra guerra nemmeno tra milioni di anni. E quindi comunque sì, per... sì. Dimmi, dimmi. Sì, sì, no, questo era perché, cioè, di contro ovviamente anche leggendo le testimonianze maschili è chiaro che poi ogni guerra ha, è orrenda, ma è una parte della vita delle persone, per cui in qualche modo ogni personaggio ha anche le sue motivazioni, no? Per combattere, per partecipare in qualche modo, per scappare o per resistere, per cui insomma sì, cioè, ho anche chiaramente i personaggi li abbiamo diversificati perché ognuno portasse un tema, e questa cosa che gli uomini escono sempre male è un po' vera, però ricordiamoci anche sempre che c'è un grande papà all'inizio. Sì, no, infatti sì, il papà è veramente un personaggio super, super positivo, che, alla quale ci appigliamo, insomma, esatto. No, no, assolutamente. E, però ecco, sono molto contenta che ci sia un fumetto che parla di questo argomento in questo modo qui, appunto, come dici tu, in una storia di formazione, quindi di una ragazza che diventa da, diciamo, da bambina a donna, si affronta una crescita proprio interiore, e anche, se vogliamo, femminista, non so, anche se questa è la mia lettura, poi ecco, magari non era proprio quello l'obiettivo, però il fatto di parlare delle brigate, di questa brigata delle streghe, insomma, l'ho trovata una, un bellissimo modo di raccontare la resistenza. Beh, grazie, questo era l'obiettivo, volevamo raccontare un punto di vista femminile su quel momento storico, e insomma, se ci siamo riuscite, siamo solo felici di questo. E, io ti faccio quindi i miei complimenti e ti voglio chiedere se hai un fumetto da consigliare ai nostri ascoltatori. Facciamo sempre questa domanda fatidica alla fine, se c'è qualcosa che ti è piaciuto recentemente che vuoi consigliarci. Sì, non è recente di uscita, però è recente la mia lettura, e restando anche in tema di fumetto storico, diciamo, che parla di un momento storico, un'opera che secondo me è veramente mastodontica sia per i contenuti che anche per la mole, è Berlin di Jason Lutz, è pubblicata da Coconino in Italia, parla della Germania negli anni in cui sta per iniziare sostanzialmente l'era nazista e la fine della Repubblica di Weimar e l'inizio del nazismo, ed è per me un fumetto di una complessità e di una, sì, di una, anche di una poesia che mi ha veramente colpito, mi è piaciuto molto, lo consiglio a tutti. Sì, una bella trilogia lunga, interessante. È un bel mattone. I tre fumetti non spaventano perché si leggono veloci, quindi insomma, è un mattone maneggevole. Va bene Costanza, ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi. Grazie a voi. E spero di risentirci al prossimo fumetto. Anch'io. Spero grazie di tutto. Grazie per l'invito. Drop, stop and roll in there and knock, knocking on your door. You're never home. Lock, stock, two loaded barrels. Said it hurt 10 to 12, 5 into the living room. Hot box and old Mercedes, yeah, I was passing to me, though you know I never smoke. Feeling like a lie. It was lately, a lot of going on, not a lot of coming in, that's how it goes. Barry taught you how to rock and roll, uh-huh. Molly taught you how to hit the floor, uh-huh. Muddy on the water, on the rock sand. Body hit the floor, party's over, uh-huh. Drive, stop, and call your mama. You know she think about you when you're gone. Left your phone on the charger at home. Drive around to your song, come on the radio. We walked in like we hit the lotto. Me from Silicon, you a supermodel. Wonder what it's like to be a rock star. Well, chainsaw to the wall, it's a wall street, we need some room. Barry taught you how to rock and roll, uh-huh. Molly taught you how to hit the floor, uh-huh. Money on the water, on the rock sand. Body hit the floor, body's over, uh-huh. Rocking like we hit the lotto. Diamo il benvenuto, il buonasera ad Alfredo Mignini. Ciao. Ciao, saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici Onda Rossa. Allora, con Alfredo invece siamo per presentare un libro di una piccola casa editrice, ma un libro che mi è piaciuto molto, che si chiama Qualcosa di Meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri. Una storia, una delle tante storie di resistenza, ma anche soprattutto di post-resistenza, perché è un libro che si svolge a cavallo tra il 44 e il 45 per quanto riguarda la storia resistenziale, ma poi va oltre, perché è la storia di quest'uomo, tuttora in vita, Otello Palmieri, che si svolge nei borghi a ridosso di Bologna, appunto, e poi emigra tra la Cecoslovacchia e poi successivamente la Svizzera. Questo è un po' il sunto di questo libro. Sì, esatto, hai detto bene, è una storia che soprattutto si vuole concentrare su quello che succede dopo la resistenza, perché in parte di storie resistenziali e di memorie della resistenza abbiamo già lette tante. E quindi sicuramente a noi, a me e all'altro autore, Enrico Pontieri, è interessato molto a indagare quello che succede dopo per questa persona. Anche perché poi Otello Palmieri è giovanissimo, nel 44-45, esatto. È veramente un, a Roma saremo un pischello, ma proprio un adolescente. Un adolescente si ritrova però poi a schierarsi, perché era anche impossibile non schierarsi, in una storia che vede ovviamente non soltanto i nazisti protagonisti, ma anche e soprattutto i fascisti con i loro rastrellamenti, in cui poi si ritrova anche un giovanissimo Otello coinvolto. Sì, esatto, il 44 è un anno fondamentale per lui, perché essendo il 27 è ancora abbastanza piccolo, però in quell'estate, a seguito di un rastrellamento, decide di entrare nella resistenza, come ci dice. Il punto è che lui è già vicino ai gruppi resistenziali che operano nella sua zona, nelle colline immediatamente fuori Bologna, e già da qualche mese in realtà fa dei piccoli lavori di servizio, diciamo, per la brigata, la 63esima brigata Garibaldi, che si trova ad operare in quella zona. Dopo il rastrellamento, diciamo, sente la spinta in più, quella spinta che gli serviva, perché lui rischia di andare, di essere deportato in Germania. E poi, in maniera abbastanza rocambolesca, come alcuni altri passaggi della sua vita, riesce a liberarsi, insomma, a scappare da questo campo di concentramento dove i prigionieri venivano assemblati prima di essere spediti in Germania. E allora a quel punto sente la spinta finale per andare, per arruolarsi, per far parte a tutti gli effetti della lotta partigiana, della lotta armata partigiana. E così inizia a fare delle piccole cose. In realtà, poi, hai detto bene, lui è abbastanza giovane, quindi fa molto lavori di staffetta, come dice, ammette lui stesso, e il grosso della sua attività personale poi è sempre un piccolo gruppetto di 3-4 persone, sono molto uniti, sono 3-4 pischelli, appunto, molto uniti, che entrano nella brigata allo stesso momento. Diciamo, il grosso della loro attività si esaurisce nel giro di poco, perché non riescono a oltrepassare la linea gotica e quindi rimangono nascosti per quell'ultimo inverno, rimangono nascosti in quella zona e cercano di fare piccole operazioni, soprattutto di recupero armi, è questo quello che fanno. Ma poi, appunto, come hai accennato e come ci dice lui stesso nell'intervista, e quindi poi come viene fuori anche nel libro, la sua partecipazione, è quello che lui ricorda meglio, succede dopo il 25 aprile, quindi in un certo senso l'importanza del 25 aprile anche come momento di cesura nella sua vita, nella periodizzazione della sua vita, della sua esperienza umana e politica, lo sfumiamo un po', diciamo. Questo è un po', cioè, sembrato anche un modo di rispettare la sua memoria, il suo modo di narrarsi e di pensarsi, perché quello che fanno dopo è per lui molto significativo. Eh sì, perché appunto poi ci ritroviamo, poi Otello si ritroverà in qualche modo messo in mezzo, no? Verrà accusato di un omicidio successivamente, di un fascista della zona. Viene raccontato molto bene lo spaccato, poi magari no, con la distanza di 70 anni quelle che erano magari le sfumature vengono meno, no? Dei paesi in cui l'identità partigiana comunista era molto forte, il paese vicino invece ha un'identità fascista molto forte. Viene ucciso un oste e lui viene accusato di questo omicidio, anche accusato in maniera abbastanza blanda, come poi è avvenuto per tantissimi ex partigiani, in qualche modo messi in mezzo anche per essere disinnescati fondamentalmente. Sì, esatto, il punto è proprio quello, nel senso che lui in realtà c'è questo omicidio che avviene nel dicembre del 45, ha tutti i contorni per essere un regolamento di conti, soprattutto probabilmente con persone che avevano vissuto la prima fase dello squadrismo, alla quale probabilmente quest'oste aveva fatto parte sostanzialmente. Però il punto non è tanto quello, perché lui di fatto, insieme a questo piccolo gruppo di persone, essendo molto attivo, essendo uno di quei partigiani comunisti che tiene le armi e aspetta la rivoluzione, appunto quello intendevo prima con il 25 aprile, che perde un po' di importanza nella sua memoria, perché loro intendono la lotta partigiana come una tappa, Questo li porta ovviamente ad essere molto esposti nella fase successiva, che poi culmina nel il 14 luglio 48, quando Palmiro Togliatti, sappiamo che sta lì per morire perché viene subisce un attentato fuori dalla Camera dei Deputati, e questo porta in subbuglio alcune zone del paese, in subbuglio e in generale un clima di agitazione, diciamo. Loro fanno parte di quei gruppi di partigiani che prendono le armi e nel loro caso occupano il municipio del paese dove risiedono. Questo chiaramente li espone, se fino a quel punto avevano di fatto prolungato la clandestinità, come facevano quando stavano nei partigiani durante la guerra, a quel punto diventano palesemente dei sovversivi, degli elementi pericolosi per l'ordine pubblico. E questo è particolarmente interessante perché poi viene fuori nel processo, che fortunosamente è rispuntato fuori alla fine di questa nostra ricerca, e viene chiaramente a galla il fatto che queste indagini vengano accelerate proprio in corrispondenza di alcuni passaggi politici nazionali abbastanza importanti. Primo, l'uscita dei comunisti del Partito Comunista dalle coalizioni delle governative dell'immediato dopoguerra nel 1947, e poi appunto l'attentato a Togliatti. Quello, come hai detto tu, è un momento importante soprattutto perché a livello ha delle ricadute a livello giudiziario molto forti, in alcune zone particolarmente, che poi colpisce abbastanza indiscriminatamente sia ex partigiani che militanti politici in generale. Cioè, c'è tutta una fase che più o meno va dal 48 al 53, alcuni storici l'hanno anche chiamata fase di guerra fredda interna, proprio per far capire queste ricadute dal punto di vista giudiziario molto forti, che portano nella provincia di Bologna a celebrare numerosissimi processi. Si parla di, in questi anni molto caldi, di picchi di 40 processi al mese per una provincia, per una sola provincia. Quindi capiamo che è un livello di repressione abbastanza forte, abbastanza intenso. Beh sì, enorme. Poi sullo sfondo, perché poi non vorrei manco arrivare a raccontare tutta la storia di Otello, perché lascerei pure, no, a chi si vuole approcciare a questo libro che raccontiamo, perché poi non è un'intervista, anche la forma romanzo. E c'è un bel... Allora, io vorrei partire anche dal primo punto. Allora, che tipo di lavoro di ricerca è stato fatto? Perché da quello che vuoi raccontare, soprattutto all'inizio del libro, vi siete trovati di fronte a una storia che neanche vi immaginavate fosse così, così vasta, così enorme. Allora, come nasce l'idea di questo libro innanzitutto? Allora, sì, di fatto noi ci siamo trovati di fronte a Otello perché c'era un gruppo di persone fortemente interessato a recuperare questa storia, a raccontare questa storia e a farci lavorare degli storici. Ecco, questo è stato a monte una cosa molto importante, perché si sono messi insieme il figlio di un suo amico che ha fatto parte del gruppo con lui incolpato e poi esiliato in Cecoslovacchia, altri suoi amici, che quindi l'hanno un po' spinto a raccontare questa storia per varie ragioni, che in parte noi sfioriamo, accenniamo nel libro. Però appunto noi ci siamo ritrovati che conoscevamo chiaramente qualcuno di questo gruppo che ci ha tirato dentro dicendoci: perché non lavorate su questa storia? Noi all'inizio, e sì, questo cerchiamo anche di farlo apparire un pochino in questa specie di miscuglio fra il diario di ricerca e il racconto della storia di questa biografia, perché appunto ci siamo trovati a lavorare inizialmente, forse un partigiano, sì, sulla novantina, che magari ci vuole consegnare memorie del Monte Grappa, e noi vediamo un po' quello che ci possiamo fare. Dopodiché ci siamo trovati di fronte a una storia esplosiva da tanti punti di vista, perché appunto, a parte il fatto che rara, anche non sono tantissimi, stiamo parlando dell'ordine di 500 persone più o meno quelli che vanno a Praga e dintorni, aiutati dal Partito Comunista subito dopo in questa fase di offensiva giudiziaria, diciamo così. E quindi sicuramente questo era un elemento di interesse, un elemento particolare che rendeva la sua esperienza particolarmente varia e interessante. Però appunto poi una persona che a noi non ha mai smesso di interessarci e incuriosirci la sua storia, perché soprattutto poi per quello che succede dopo la Cecoslovacchia. Tu l'hai accennato, appunto, lui torna e poi va in Svizzera. Ecco, questo era un elemento che da subito ci ha fatto un po' arrovellare, su cui abbiamo provato a fare un lavoro di interpretazione, chiaramente. Quindi, per tornare alla tua domanda, è quello un po' il lavoro di ricerca che abbiamo provato a fare. Innanzitutto, questa storia che ci interessa e che esplode da tanti punti di vista, e quindi abbiamo provato a indagarla con gli strumenti classici della storia orale, quindi dell'intervista lunga, ripetuta, approfondita, chiamiamola un po' come vogliamo, e poi con l'incrocio di tutta un'altra serie di materiali d'archivio, a stampa, che in parte conoscevamo, in parte abbiamo scoperto durante questo lavoro. Poi questa è una pagina molto interessante, perché poi Otello si sentì anche tradito, perché dopo aver provato, no, per vie giudiziarie a disinnescare chi ha voluto continuare, no, la rivoluzione dopo il 45, gli ex partigiani, i militanti politici, poi invece ci ha pensato il Partito Comunista dopo l'attentato a Togliatti, eccetera, a cercare di disinnescare tutta una serie di persone, per cui Otello si sentì anche tradito dal PC stesso, da quelli che sono poi i suoi racconti, di quelli che sono i suoi ricordi e i suoi sentimenti. Sentimenti di un uomo che il primo approccio è stato quello di molto titubante, no? Perché lui vi ha detto: ma ai giovani gli interessa più questa storia, non interessa più a nessuno. E che dà poi, no, anche un po' il carattere di un uomo, di un personaggio che ancora adesso, poi appunto dalla storia che vi ha raccontato, sembra ancora piuttosto vivo ed energico. Sì, questo è senz'altro un dato che emerge dal rapporto che abbiamo avuto e che abbiamo con Otello, che abbiamo stretto in questi anni, perché poi abbiamo iniziato a lavorarci nel 2017. E sì, senz'altro il nodo del sentirsi tradito, della distanza che lui matura nei confronti innanzitutto del partito e poi a un certo punto anche dell'ideologia comunista, è particolarmente spinoso, nel senso che su quello noi abbiamo provato a farci anche lì una riflessione, e abbiamo provato ad entrare in dialogo anche con Otello, perché non è semplicissimo, non è immediato, chiaramente. E quello è strano, nel senso che il rapporto che lui ha con il suo passato, il rapporto che lui ha con la sua esperienza di militante politico, chiaramente dopo l'89, cioè possiamo benissimo immaginare e capire, cambia, si modifica, si trasforma in maniera molto, molto forte. Quindi lui di fatto oggi si dice deluso, disilluso, se vogliamo, da quell'ideologia, o comunque si dichiara assertore del fallimento del comunismo in tutte le sue forme, per una serie di ragioni che lui mette insieme, che però è questa la parte più interessante, che lui antepone fino a portarle alla sua esperienza in Cecoslovacchia. Ecco, quindi questo è anche un altro nodo particolarmente interessante su cui abbiamo provato a lavorare, perché una persona che ha quel tipo di esperienza politica, che poi a un certo punto gli crolla tutto quel mondo, tutta quell'aspettativa, quell'utopia di cui si era nutrito lui e una comunità politica vasta, gli crolla tutto nell'89, a un certo punto si ritrova anche orfano di una serie di punti di riferimento, e forse, almeno secondo la nostra interpretazione, va a portare sempre più indietro questo punto di svolta, anche se questa forse è la parte interessante che viene fuori, dall'intervista, che viene fuori anche grazie alla posizione e alla collocazione proprio umana, personale che ha lui all'interno di questa grande storia, questa grande questione comunista novecentesca, cioè il fatto che alla domanda ma quando è il momento in cui ti rendi conto veramente che questa cosa non funziona più, lui dice mai. Quindi ecco, questo è un po' il contrasto che abbiamo voluto, provato a lavorare, cioè la disillusione portata sempre più indietro fino ad arrivare all'esperienza cecoslovacca e e dall'altro lato una convinzione, un attaccamento all'ideale che rimane, che persiste e che lui sente ancora vivo. E in questo senso anche quelle cose a cui accennavi tu prima, la difficoltà di collegarsi con il presente, di dire ai giovani non interessa nulla, questo filo che si interrompe che lui non ritrova più, che non lo lega più a una comunità politica esistente, odierna, in realtà crea anche la possibilità per il racconto, perché poi a un certo punto lui si fida di noi, diciamo, noi insistiamo un pochettino, stiamo lì, lo ascoltiamo e alla fine portiamo avanti questa operazione. E lui si apre una possibilità di racconto, non dico che ritrovi un collegamento con l'oggi, però perlomeno trova una possibilità di dirsi, ecco. Sì, diciamo che lui appunto prende un po' a distanza sia dallo stalinismo che dal PC di Togliatti, anche abbastanza netta, che poi lo portano a emigrare successivamente. A Otello è piaciuto il libro? Questa è una bella domanda, nel senso che per essere proprio sinceri, all'inizio la prima impressione è stata negativa. C'era una serie di ragioni che lo tenevano un po' distante forse dal nostro modo di raccontare la storia, da alcune nostre sensibilità, perché noi appunto nel trattare la lunga intervista come un testo quasi, ci teniamo anche a distinguere i punti di vista e a mettere sulla carta questo dialogo fra noi e lui, che siamo diversi, e questa è stata una scelta abbastanza precisa. Non sempre l'ha convinto, chiaramente, perché in alcuni passaggi sicuramente il nostro assume la postura di uno sguardo molto critico su alcune sue scelte, su alcuni suoi momenti, su alcuni bivi che si presentano di fronte alla sua vita. Quindi questo a volte lo ha lasciato un po' perplesso. Sicuramente alcuni passaggi, soprattutto relativi a quel processo che tu accennavi, a quel fatto di sangue a cui accennavi, a lui sono risultati particolarmente ostici, perché giustamente quella, ma questo è interessante, ci fa riflettere, quella per lui è una storia che non è sua, quello per lui è un processo farsa, che cosa che poi noi siamo riusciti fortunatamente a verificare, e che non lo rappresenta e che non fa parte della sua vita, che non fa parte della sua esperienza, e quindi che all'inizio gli sembrava quasi strano che noi dessimo così tanta importanza a quel fatto. Ecco, quindi tutta una serie di distanze hanno fatto sì che lui all'inizio non amasse particolarmente, non si fosse innamorato di questo libro, di questo testo, però in parte quello ha aperto delle discussioni fra di noi, in alcuni punti ci ha portato anche a limare alcuni passaggi, alcuni particolari, alcuni elementi che per lui potevano essere molto sensibili, e alla fine diciamo abbiamo trovato una quadra, ecco. Che allora la forma di questo libro, di questo romanzo, è una forma ibrida. Perché appunto, no, si passa dall'intervista al racconto, c'è qualche testo che vi ha ispirato come forma, parlo di scrittura e di composizione del testo? Guarda, sì, senz'altro ci sono diversi punti di riferimento a cui noi ci siamo rifatti, perché avevamo intenzione di, come hai detto tu, trovare una forma ibridata o comunque a metà che riuscisse a mantenere il livello di approfondimento e di sguardo critico che è proprio della ricerca storica, e nello stesso tempo diciamo così la piacevolezza di una fruizione di una storia di vita che si legge come qualsiasi altra storia. Quindi tenere insieme questi due piani ci ha portato a scegliere questa forma in cui noi raccontiamo senza mai mettere le note a più pagina, ma demandando tutto a un ultimo capitolo che espone le fonti e i materiali su cui abbiamo lavorato. Sicuramente ci sono esempi nobilissimi a cui noi guardiamo dal basso in alto, sicuramente, fra cui Taibo II, Cercas, ma gli stessi Wuming in Italia, molto, ma non solo, molto, molto famosi, molto letti, molto conosciuti. E poi per noi ci abbiamo tenuto fin dall'inizio, lo mettiamo nella primissima pagina come citazione in esergo, è stato anche un punto di riferimento importante Manlio Calegari, uno storico abbastanza, diciamo, poco conosciuto, forse meno conosciuto di quello che meriterebbe, e che ha lavorato molto sulla resistenza, soprattutto su Genova, e molto con le fonti orali, e che da cui un po' prendiamo quel o cerchiamo di prendere un modo di trattare la fonte, un modo di riportare il dialogo, un modo di riportare anche i dubbi che si hanno nel corso della ricerca, come pian piano questi nodi si sciolgono insieme alla persona che si intervista. Quindi questo è stato un punto di riferimento abbastanza importante, però diciamo è una tendenza questa di scrivere la storia allontanandosi dalla forma saggio, è ormai una tendenza che non mi sembra, non saprei, comunque mi sembra, non mi sembra più tanto di nicchia, e comunque mi sembra una tendenza verso cui diversi autori e autrici si stanno muovendo, cominciano a guardare con un certo interesse. E noi abbiamo provato a fare, noi facciamo una prova, ecco, ci siamo cimentati con tutti i limiti che possiamo avere, e ci abbiamo provato, anche perché poi una sfida in più, un elemento di difficoltà in più per noi è stata la scrittura in due, quindi quello sicuramente ha influito anche sul tipo di lavoro che abbiamo fatto, sul tipo di lavoro sul testo e dialogo sul testo, perché eravamo sempre un po' in tre coinvolti in questo processo di scrittura, io, Enrico e Otello. Senti, l'ultima in chiusura, che poi è l'altra nota che mi è piaciuta di questo libro, perché poi è un libro di una piccola comunità che si è mobilitato non soltanto per portare fuori la storia stessa, tanto che alla prima presentazione che avete fatto proprio nelle stesse zone di dove è nato e cresciuto Otello Palmieri, avete venduto oltre 100 copie, e c'era proprio una comunità di persone che si è raccolta intorno ad una storia di resistenza che non è così scontato nell'Italia contemporanea. Sì, è vero, anche a me ha fatto molto piacere appunto riuscire a ricreare questa comunità. Peraltro siamo stati ospitati da un centro sociale intitolato ad Anteno De Lanzarini, che è uno dei partigiani che noi infiliamo nel libro, perché è stato molto importante per quelli dell'età di Otello, proprio questi pischelletti che stavano lì a Oliveto e che vedevano questo Antenore, che era un po' il ragazzo grande che stava in montagna, e loro sapevano che andavano lì, trovavano lui che li accoglieva, ragazzo del paese, eccetera. Quindi è stato bello, peraltro è stato molto molto bello avere sua figlia lì in quel momento alla presentazione. Insomma, sì, sicuramente si era ricomposta con tutte le complessità chiaramente dei 74 anni che ci separano da quegli eventi, e si era un po' ricomposta una bella comunità interessata a questo. perlomeno per noi è stata l'occasione per dire a Otello, vedi che non è vero, non gli fregava niente a nessuno, cioè almeno quello siamo riusciti a scalfire, perlomeno la sua proverbiale diffidenza nei confronti del genere umano e soprattutto delle giovani generazioni, poi elemento che sta un po' iscritto nella senilità, chiaramente, che però per lui è stato particolarmente, boh, non so, credo di interesse o comunque di gioia. Senti, allora chiudiamo così, perché appunto poi a me questo libro mi è arrivato dal racconto di due amici in comune che mi hanno detto: guarda, è uscito questo libro, avevo letto le bozze di tutto, dicendo è molto figo, quando esce gli consiglio di presentarlo, eccetera eccetera. Quindi poi ci siamo arrivati così, perché poi è un libro di una piccola casa editrice, non è detto che è scontato che si trovi facilmente. Lo ripetiamo, si chiama Qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri, edizioni Pendragon. Se volete avvicinarvi a questo libro, c'è un su Carmilla online, ci sono degli stralci pubblicati tra l'altro un paio di settimane fa. Basta che mettete il titolo del libro su Google, biografia, il titolo del libro è scritto accanto Carmilla online, ci arrivate direttamente, quindi mi fate anche un'idea, perché ci sono proprio le prime pagine praticamente del libro. Così io lo consiglio, perché è una di quelle storie appunto di resistenza, una piccola storia, ma è una storia poi enorme, perché va a toccare diversi anni e ha diversi spunti di quella che è stata non tanto la resistenza in sé per sé, ma soprattutto l'immediato dopoguerra. Sì, grazie mille. Io e Enrico siamo molto riconoscenti nei confronti di Giovanni, Lenia, che tu hai nominato, perché loro sono stati un po' i nostri correttori ombra, che stavano lì dietro a trovarci i problemi, gli errori, le cose che non si capivano, sono state fondamentali in quel, chiaramente, oltre alla piccola comunità che si stringe intorno a Otello il giorno della prima presentazione, c'è anche una piccola ma per noi molto significativa comunità di persone che ci ha proprio aiutato, che ci ha commentato il testo, che ce l'ha rigirato in alcuni pezzi, quindi chiaramente sempre risultato di un lavoro collettivo, in questo caso a maggior ragione, perché già gli autori sono due, però poi c'è una bella comunità intorno che supporta e che ragiona soprattutto e chiacchiera di queste cose in maniera molto, molto approfondita, molto significativa. Io ti ringrazio, ci vediamo a Roma, perché tanto da quello che so prima o poi passerete nelle prossime settimane anche a Roma per presentarlo, poi magari quando sappiamo la data l'annunciamo anche qui, quindi in bocca al lupo e a presto. Ciao ciao. Crepi. Ciao. Ciao ciao. My man Mohammed, poor Jesus too. la moglie del capitano. Quella è la moglie, dicevano, la moglie del capitano Lussu. Che bella. Sì che era bella. Bella quanto insolita e imponente. Nuova, che più nuova di così non era possibile essere per una donna, a Guasila, in quell'ormai lontano dopoguerra. Era proprio vestita da moglie del capitano. Lussu lo conoscevo già. Tutti quelli che avevano fatto la prima guerra mondiale ne parlavano sempre. Per me, da allora e per sempre, Joyce Lussu è la moglie del capitano. Credo che anche lei si sentisse qualcosa del genere, fino alla morte, come compagna di Lussu. Compagna in molti sensi del termine, anche come militante di molte battaglie antifasciste, lei così bellicosamente antimilitarista. E anche così totalmente sarda e sardista, pur essendo e restando toscana, inglese, marchigiana, francese, europea, un plurimo innesto sull'olivastro sardo del Gerrei. Così scriveva Giulio Angioni sulla Nuova Sardegna nel febbraio del 2014. Io credo che a lei sarebbe piaciuto questo racconto personale che ricorda molti aspetti della sua lunga e pienissima vita, la lotta antifascista, l'antimilitarismo, la novità che rappresentava, le radici e i plurimi innesti e il suo legame con Emilio Lussu, di cui aveva scelto di portare il cognome perché le donne non hanno un proprio nome, le donne devono sempre portare il nome di un uomo, o è il padre o è il marito. Il padre me lo sono trovato, il marito me lo sono scelto, c'è un briciolo in più di autonomia. Il suo compagno Emilio Lussu, scrittore, politico, fondatore del Partito Sardo d'Azione, Joyce l'aveva conosciuto nel 1939 a Parigi. Aveva 22 anni in più di lei, era esule da quando era fuggito dal confino a Lipari nel 1929, era già una figura leggendaria. E Joyce, che militava per giustizia e libertà, aveva avuto il compito di consegnargli una lettera. In una poesia negli anni successivi alla morte di Emilio Lussu, scriverà: «Emilio, ti ricordi quando ci siamo incontrati la prima volta in una casa svizzera linda e lustra, di cera e di tendine, e già la sera stavamo abbracciati in un letto a una sola piazza, e poi tanti decenni di cose fatte insieme, e le assenze, i viaggi lunghi e brevi, tu partivi, io partivo, ci mandavamo cartoline fino all'incontro successivo». Giulio Angioni la ricorda in uno dei suoi viaggi a cavallo nell'immediato dopoguerra per i paesi sardi in cui andava per parlare alle donne. Erano gli anni in cui la moglie del capitano, a Liberazione Avvenuta, quando Lussu entra in Parlamento, non ha davvero nessuna intenzione di rimanere a fare la moglie di, e quindi parte, va prima di tutto in Sardegna, questa terra che aveva iniziato a conoscere e ad amare moltissimo, tanto che appunto sarà lei a parlare di radici e innesti in un libro che si intitola L'olivastro e l'innesto. Dirà appunto: non ci sono solo le radici, ci sono anche gli innesti. E qui appunto si dedicherà soprattutto a parlare con le donne di lavoro, di diritti, ma anche di ambiente e di pace. A Roma era arrivata pochi mesi prima del 4 giugno del 44, il giorno in cui i tedeschi lasciarono la città, dopo una missione che l'aveva vista passare le linee del fronte per prendere i contatti con il sud già liberato. È il racconto che farà già nel 1945 in Fronti e frontiere, uno dei suoi testi più famosi, scritto appunto subito dopo la liberazione. Un racconto molto concreto, fatto di dialoghi in cui è presente anche l'ironia, quasi come fosse normale quello che racconta, in cui non c'è una visione eroica del suo ruolo. Antifascista, antimilitarista e anche sardista, dice Angioni, ma anche femminista, ecologista in un modo sorprendentemente anticipatore. A questi temi era stata educata sin da piccola, anche se poi, per esempio, rispetto al femminismo, lei è sempre stata molto critica sui movimenti femministi sia italiani che europei, che erano colpevoli, secondo lei, alcuni di aver aderito al fascismo, anche con entusiasmo, altri di non dare abbastanza importanza alle lotte di classe, altri di demonizzare gli uomini. Per lei la lotta delle donne non poteva essere separata da quella contro la povertà, contro il razzismo, contro l'esclusione degli ultimi. La formazione è particolare, dicevo. Joyce Lussu era nata nel 1912 a Firenze con il nome di Salvadori. Le famiglie di entrambi i genitori avevano una parte femminile che veniva dall'Inghilterra ed era fatta di donne colte, liberali, femministe, per l'appunto anche laiche, mentre la parte maschile veniva da nobili, agiati e anche conservatori, proprietari terrieri del marchigiano. E entrambi i genitori entrano abbastanza presto in rotta con le rispettive famiglie, con le quali non condividono valori, visione del mondo, e vanno a vivere a Firenze. A Firenze ed è in Svizzera, nel cantone francese, dove Joyce e suo fratello e sua sorella frequentano una scuola molto particolare che si chiama Fellowship School, la scuola della fratellanza. È un'esperienza che nasce ideologicamente dai movimenti antimilitaristi e non violenti promossi dagli intellettuali occidentali dopo la prima guerra mondiale. Una scuola in cui si riceve un'educazione laica, pacifista, antimilitarista, femminista. L'antimilitarismo si scontra a un certo punto con quello che accadeva intorno a lei, scriverà Joyce Lussu, che fa una donna che si trova nell'occhio di una guerra terribile, organizzata e condotta dagli uomini, che ha bruciato tutti gli spazi del confronto civile e non lascia aperto che il confronto delle armi, nell'alternativa tra la complicità e la lotta, tra la schiavitù e la vita. Io ero irriducibilmente convinta che alla donna non spettano le retrovie della storia, ma la prima linea. Entra da subito a far parte della resistenza Joyce Lussu, lo farà con le armi, si addestra addirittura in un campo militare in Inghilterra per alcuni mesi della sua vita, impara a usare ordigni, impara a lanciarsi dal paracadute e lo fa essendo spesso l'unica donna, poi ne troverà altre e avendo intorno lo sdegno della maggior parte dei compagni, tranne il suo di compagno Emilio Lussu, che dice era l'unico che approvasse completamente il mio sdegno e le mie rivendicazioni. Il rapporto di coppia era per lui un rapporto di parità e mai gli sarebbe venuto in mente di propormi un ruolo subalterno o di considerarmi incapace di affrontare rischi e iniziative autonome. Rifiutando ogni colonialismo esterno e interno alla società, rifiutava anche il più antico e stabilizzato dei colonialismi, quello degli uomini sulle donne. Con Emilio Lussu condivideva tra l'altro anche uno sguardo sulla narrativa, uno sguardo sui loro scritti. Narratrice non si è mai davvero considerata Joyce Lussu, quello che le importava era raccontare e farsi capire. Quello che condividevano appunto è un concetto che sta alla base un po' della produzione letteraria di entrambi, che è la ricerca di una parola che sia il più possibile comprensibile, il più possibile non ambigua, perché appunto la funzione è quella di farsi comprendere. È stata poetessa, abbiamo letto prima alcuni versi della sua poesia dedicata a Emilio Lussu, è stata l'autrice di una delle poesie più note soprattutto nel mondo della scuola quando si parla di campi di concentramento, che è Scarpette Rosse. È stata anche traduttrice negli anni 60, incontra Hikmet, nasce con lui un rapporto di stima, di amicizia, e lei decide di tradurre le sue poesie. Lo fa senza conoscere il turco. Quello che veramente la particolarità di Joyce Lussu traduttrice è stata quella di tradurre da tantissime lingue che lei non conosceva, ma pensava che l'essenziale fosse comprendere il poeta e comprendere il senso di quelle poesie per poi riscriverle nella sua lingua. E viaggerà in Africa accanto ai liberatori nei movimenti di liberazione dei vari paesi africani e tradurrà una serie di poeti che vengono appunto da questi paesi. Scrive in un altro dei suoi scritti, che spesso rielaborano un po' le storie della sua vita, anche riprendendosi l'un l'altro: comunque mi è venuta in mente una periodizzazione di cose con cui ho avuto a che fare dal secondo dopoguerra in poi. È una periodizzazione divisa per decenni, chissà poi perché. dal 48 al 58 comizi elettorali, sindacati, partiti di massa, Unione Donne Italiane. Conseguenze, ulcera gastrica con operazione d'urgenza. Dal 58 al 68, molti viaggi, ricerca di poesie nel mondo, partecipazione a movimenti di liberazione anticolonialisti in Africa e in Medio Oriente. Conseguenze, stata sempre benissimo. Dal 68 al 78, vabbè, il 68, e poi le varie propaggini femministe. Pubblicazione di diversi libri su guerra, ecologia, poesia, editi da Mazzotta, Mondadori e altri. E poi, dal 78 all'88, frequentazione di scuole di tutti gli ordini e gradi, nella veste tutt'altro che istituzionale di storica non professionista. Lezione ovunque, con bambini e ragazzi di tutta Italia, più qualche corso d'aggiornamento per insegnanti che ne hanno estremo bisogno. Dall'88 al 98, continuazione di attività in collaborazione e scambio, soprattutto con bambini, ragazzi e giovani di varie età, fino ai 90 anni, poiché l'età è una questione di cultura, non di anagrafe. Cercare di capire cos'è l'era elettronica, atomica, informatica è compito di tutti noi. Per quanto riguarda il decennio dal 98 al 2008, sto organizzandomi appena adesso. Non lo so, ci devo pensare. Era che voglio cantare per tutta la gente che le nuda cantare sinco. Ah, che voglio suonare, che voglio cantare per tutta la gente che le nuda cantare sinco. Qui se ne per un ride se menta, vive per quelle particolare. Ah, che voglio suonare, che voglio cantare per tutta la gente che le nuda cantare sinco. Per gli amiche da sole, per Milan, per tu e Bologna di Napoletan. Per gli amici c'è sole e tempo in Milano. Che saghe di neger, saghe di bianca, adesso attaccamo a parte qua. Per gli amici c'è sole e tempo in Milano, per qui è Bologna di Napoletano. E torniamo quindi qui in diretta a Tabula Rasa per salutarvi, per ringraziarvi di averci ascoltato fino a questo momento e per ricordarvi di cosa abbiamo parlato oggi. Abbiamo dato tantissimi consigli di lettura rispetto alla resistenza e abbiamo iniziato appunto con La Rosa Armata, un graphic novel di Costanza Durante, Elisa Menini, Alessio Ravazzani, edito da Minimum Fax, 216 pagine per 18 euro, e ne abbiamo parlato appunto con Costanza Durante. Poi abbiamo parlato con Paola Soriga di Joyce Lussu, L'uomo che voleva nascere donna, diario femminista a proposito della guerra, edizioni Malamente, 150 pagine per 14 euro, e abbiamo terminato invece con Alfredo Mignini per Qualcosa di meglio, biografia partigiana di Otello Palmieri, 224 pagine, Pendragon, 15 euro. Grazie per averci ascoltato e ci diamo l'appuntamento a giovedì prossimo con un'altra puntata di Tabula Rasa. Grazie a tutti. Sira ve suriden per tutta la smana e se tutta e sa su non meno sa sbagliam ma perché poi si diverte di qua posso che pede con la mano forse ragazza adesso da campo posso che pesso con la mano ancora che solica adesso su una se chi vuoi andare su che se che voglio saltare insieme alla strana posso che pede con una mano forse ragazza adesso attaccato posso che pede con una mano forse ragazza adesso attaccato posso che pesce con una mano ancora la solica adesso su una se che voglio andare su che se che voglio saltare insieme alla strana che pede con un man, forse ragazza adesso attaccamo!